24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. L'uomo ti ha detto che la colpa di tutto è del cane, della Bignardi. Me l'ha messo in braccio. È stata poco corretta. Marione, che cazzo dici? Quale cane? Sei tu che nell'ultimo anno le hai sbagliate tutte. È come se Berlusconi dicesse: anci picchia, andava tutto a gonfie vele, poi purtroppo mi è arrivata questa brutta tegola di Dudù. Vabbè, così è così. Questo è Crozza, ieri a Ballarò. Buongiorno cari italiane, cari italiani. Buongiorno a Miriam Lucchetti in redazione. Buongiorno alla mia tosse, alla mia voce. Buongiorno all'alpino Peter Bescapè. Tasi e paga, eh? Come dicono in Veneto, tasi e paga. E via. Questo è 24 mattino, vogliamo aprire subito il nostro Parlamento alle 6.33 minuti? Dai, tiriamo sulla serranda. Un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Io non lo voglio il caffè della mia. No. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Mi mancava un po' però, Mi mancava, è tornata. Eccoci qui, siamo con, come ogni mercoledì, con i nostri due eroi del mattino. Intanto Paola Saluzzi, eroina del mattino. Buongiorno a tutti, avrò cose da dire su funamboli e funambulismi. Fare che mi blocchi quest'oggi, perché devo parlare con i nostri radioascoltatori e devo raccontare quanto talvolta si sia tanto bravi a fare così bene la radio e così bene la TV. Andiamo avanti. Va bene, esatto. Devo anch'io imparare a mettere i violini come fa. Alla zanzara. Va bene. Grazie Paoletta. Allora voglio salutare il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Buongiorno direttore. Buongiorno. Che oggi è una colpa. Ho ritirato la mazzetta dei giornali e oggi pesava 7 kg. Ho detto, ma cos'è? Come mai tutta sta cultura dei giornali? Giornali, tra poco lo spieghiamo, c'è un'edizione speciale di Vanity Fair dei 10 anni. Quanto pesa, direttore? Un paio di chili effettivamente, 508 pagine speciali, ma tra poco vedremo. Paola Saluzzi, vai col carrellino in edicola oggi, perché, assolutamente, sono già lì davanti, non è vero, sono in pigiama, ma tra un istante sarò attenzione, lì davanti. E attenzione dieci anni a queste immagini, sono in pigiama, Paola Saluzzi, non darci questa immagine, Paoletta. Vabbè, alle 6.35 che poi qua gli ascoltatori ci mandano i messaggi, sono in pigiama, Paola Saluzzi, va bene. Beh, per non fingere di essere già pronta davanti all'edicola, compleanno intanto. Vanity Fair, buon compleanno. Grazie. Buon compleanno, giustamente. Allora, caro Luca Dini, tu che Daria Bignardi la conosci, visto che scrive per Vanity Fair, ma questa storia del cane Empi, cosa ne dice in realtà? Perché pubblicamente ha detto poco, ha risposto su Twitter. Che ne pensi di questa vicenda Monti e del cane Empi, no? Scelta Civica si spacca, è colpa del cane. Ma francamente, con tutto il rispetto per Monti, è ridicola questa cosa, nel senso che peraltro Monti era andato dalla Bignardi proprio perché gli era stato evidentemente consigliato di avere un'immagine più sbarazzina, quindi si era detto pronto sportivo, pronto a qualsiasi cosa, e quel cane lì poteva adottarlo, non gli era stato chiesto di adottarlo, insomma non capisco veramente dove stia, anche perché poi il giorno dopo erano tutti entusiasti. Ma sì, ma certo, ma certo. Generale, Twitter, ma pensa in America come un candidato avrebbe, non so, utilizzato in realtà questa cosa in maniera no, straordinaria. Sì, anche non capisco l'ostinazione a distanza di mesi, cioè forse la cosa che dovrebbe dire, cioè probabilmente si è reso conto di aver sbagliato a salire in politica, diciamo, Ma non solo a salire in politica, anche a dare di sé un'immagine, cioè gli è stato consigliato evidentemente di dare di sé un'immagine che non gli corrisponde, questo lo ha pagato sicuramente. Sì, sì, io credo che Mario Monti abbia... Ma del cane. Certo, povero Empi, ma anche Paola Saluzzi che è una gattara potrà spezzare una zampa nei confronti di Empi in questo caso. Spezzare una zampa, oh, mamma mia, adesso mi sono messo in un guaio, no? Nel senso, accarezzare una zampa nei confronti di Empi. Insomma, sì, è stato un po'... però è tornato tanto professore, insomma, a distanza di giorni dopo quella che credo si spegnerà come una non polemica, in quel momento ha detto una cosa sincera, insomma, ha detto non, probabilmente mi è stato messo in braccio, ecco, non credo che Daria Bignardi volesse a tutti i costi imporre la presenza del cagnolino, è andata così, insomma, io credo che siano altri i motivi. Ma no, ma poi non è che le rimprovera di averlo dovuto mantenere, Monti, questo cagnolino. Le rimprovera il fatto mi ha messo una sua collega, che poi, cos'è che ha detto l'annunziata poi, collega, è dir troppo? Cioè, non lo so, ha tirato fuori un astio a distanza di mesi, che non si capisce bene. Beh, quello l'ho trovato onestamente brutto, anche perché, cioè, proprio l'immagine anche del... insomma, del giornalismo estremamente professorale. Sì, sì, abbastanza. Comunque... Comunque sappiate che io ho Agata che pesa 13 kg ed è un cocker delizioso, se volete. Appena ci vediamo, io mai regalandomela, però vi posiziono Agata di 13 kg in braccio. Vabbè. Peraltro, sappiate che Dudu, così chiudiamo la parentesi animalesca, oggi fa sapere Michela Brambilla sul Corriere della Sera, ti giuro, l'ho letta così, che doveva chiamarsi Gennaro. Cioè che obiettivamente non avrebbe sfondato sui giornali come Dudu, devo dire Gennaro. Gennariello, il cagnolino Gennaro, poteva chiamarsi. E poi invece Dudu, così ha scelto Francesca Pascale, ovviamente sceglie il tuo più vezzoso, insomma. Sceglie tutto lei, non Gennaro ma Dudu. Allora, in realtà sulla questione Monti c'è anche interessante poi la leggerò da segna stampa. L'ex ministro Fornero parla e dice sul Corriere della Sera: basta, è una vergogna come lo stanno trattando, forse effettivamente è stato un errore salire in politica, io sono entrata da tecnica e sono uscita da tecnica, però anche lei non è andata benissimo quanto a critiche. Insomma, Paola Saluzzi ha sbagliato secondo te, Mario Monti, a fare questa scelta politica? Adesso è la cosa più facile da dire per tanti, no? Adesso sembra tutto risolvibile in un ha sbagliato a fare politica. Questo lui stesso e altri lo capiranno tra un po' di tempo. Oggi Scelta Civica è una realtà che esiste. Se si trasformerà in qualcos'altro è comunque partita da un'idea. Non lo so se si possa dire che abbia sbagliato, vorrei aspettare un po' di tempo prima di dire una cosa del genere, perché non mi piacciono le pagelle veloci e un po' troppo immediate che si stanno stilando in questi giorni. Non le trovo corrette, ecco, non le trovo corrette da un punto di vista proprio di analisi della persona e del progetto messo in piedi. Aspettiamo un po' di tempo. Aspettiamo. Intanto Scelta Civica oggi ai giornali si legge: si è rotta e quindi zero sono andati di qua, zero di là. E via, si sono separati. Così. Per te, Luca, ha sbagliato Mario Monti andare in politica oppure no? Cioè... No, secondo me non ha sbagliato ad andare in politica, ha sbagliato a imbarcare chi è imbarcato, perché era scritto quello che poi è successo, nel senso che insomma quelli che lui ha chiamato i professionisti dello slalom sono professionisti dello slalom, quindi lo doveva sapere, certo. Ho capito, se ti metti con due scafati politici alla Casini o Mario Mauro, ma che ti aspetti? Cioè che fanno politica, cioè politica no, nel vero senso della parola, per cui anche poltrone, potere, e lui invece voleva fare una roba professorale, dottorale, non lo so, insomma, non... Era meglio Empi. Vabbè, cara Paola, io te devo leggere per dovere di cronaca e perché, insomma, voglio la rossa in pigiama. questo. Oppure se la Saluzzi sente freddo in pigiama, mi offro come coperta, Mirko. Ah, da... la copertina umana, oh, che gentile, grazie. Mirko da Genova ci fa sapere che nel caso, insomma, Genova, Roma è un po' distante, ecco, però vabbè. Poeta, viene dalla terra dei poeti, Mirko, Genova, sai, sì. Andrea. Sì. Sì, me lo vedo proprio poeta in questo momento. Comunque, allora, ecco, un'altra cosa che non ho capito è la polemica sui giornali, è Rosy Bindi, presidente dell'antimafia, oggi insomma si litiga su tutto e non ho ben capito quale sia il vero problema. Credo proprio nella figura di Rosy Bindi, una figura che secondo alcuni spacca, insomma, in due, come dire, non lo so, a voi da... Beh, io credo che sia aiutatemi voi. Direttore, credo che la cosa importante sia che si abbia un presidente dell'antimafia, nel senso che questo era un commento fatto nei giorni scorsi, così tra amici, tra colleghi, non è che nel frattempo il problema fosse andato in vacanza, dice, sai, vabbè, per ora non c'è il presidente dell'antimafia, questo non risolve il problema della mafia in Italia, siamo d'accordo, ma abbiamo aspettato 6 mesi? L'antimafia, credo cioè, anche 8, sì. Cioè, mafia nel nostro paese vuol dire urgenza e di conseguenza avere un vertice forse vuol dire anche lavorare in maniera ancora più snella, ecco, questo voglio dire. Poi certo non si sono fermate le forze di polizia, non si sono fermati i magistrati, non si è fermato nessuno. Però, infatti il procuratore capo di Reggio Calabria oggi in un'intervista a Repubblica dice che spettacolo indecoroso dalla politica, insomma, ma forse è la commissione che si dovrebbe insediare il primo giorno, il ma primo prima giorno di prima, prima di prima in Italia, no? Prima di lunedì. E invece qui c'è il mini Aventino minacciato dal Popolo della Libertà, perché se c'è Rosy Bindi dovrebbe dimettersi, se no questa commissione è destituita di ogni credibilità. Queste sono un po' le dichiarazioni alcuni. Tu, Luca Dini, hai capito qual è il problema? Cioè, penso... sì, ho capito il problema. Il problema è che per parte della politica italiana il problema non è la piaga della mafia o come combatterla, ma il problema è come spartire le poltrone e come giungere a un nome che non offenda nessuno. Cioè, è veramente uno spettacolo triste, perché il problema appunto non è la competenza o meno di Rosy Bindi, è il fatto che lei non piaccia a una parte del nostro Parlamento e che sostanzialmente sia stata eletta... Sì, senza, senza accordo, no? Senza come accordo. Dire, non gioco più, vado via, ecco, un po' da bambini. È un po' sì, comunque vediamo, è come al solito, come la politica italiana, cioè vengono triturate, macerate in 2 giorni queste polemiche e poi si pensa ad altro, cioè a nulla, però si va avanti. Allora, noi dobbiamo andare a sentire il traffico, poi c'è la segreteria telefonica e sentite bene, anche tu direttore, la segreteria telefonica, perché l'altro giorno, l'altra settimana te ne sei andato via in aereo dicendo qualcosa con qualche ascoltatore che si è risentito. Si è risentito tra poco. Come si dice in un linguaggio giovanile, comunque Rosy Bindi spacca. 24 mattino. Complimenti Fazio, volevo ringraziarlo, perché se non altro il signor Maradona ci ha mandato un bel... Oh, riguardo la polemica di Maradona, no? Ha fatto il gesto dell'ombrello perché non rispetta le persone che pagano le tasse. Ma cosa cazzate dite? Ha fatto un gesto all'agenzia delle entrate, non c'entra un cazzo la gente che paga le tasse. Ha ragione, siete una manica di pecore! Ma quale forcone, finché i nipoti e i figli saranno mantenuti dai pensionati, i pensionati d'oro, d'argento e di bronzo, ci sarà niente da fare, la rivoluzione in Italia non la farà nessuno. Hanno dimezzato il contributo che Berlusconi dà alla sua ultima moglie divorziata. Che dolore, facciamo una colletta? Viva l'Italia che consente queste belle altalene. Bravo Luca Dini, chi mette sullo stesso piano le nostre difficoltà con quelle delle popolazioni che muoiono di denutrizione e per malattie che da noi sarebbero curabilissime è veramente un uomo di merda. Io sono quel cittadino italiano che è stato portato dal tuo ospite Luca Dini come italiano di merda. Mi ha fatto piacere perché io sono un italiano di merda che pago sempre fino in fondo tutte le tasse. Se tutto questo giustifica chiamarmi italiano di merda da parte di Luca Dini, che ha il portafoglio pieno, ben venga, per me è solamente un complimento. A salute. Ciao Milan, volevo dirti che non sono assolutamente arrabbiato, non voglio procurarmi nessun forcone. L'unica cosa che voglio procurarmi è il numero di telefono della Saluzzi, quindi ecco, gentilmente se me lo puoi mandare, guarda, io sono posto così, il forcone lo lascio agli altri, la arrabbiatura la lascio agli altri, ne prendo la Saluzzi, eh? Vabbè, ciao. Vabbè. Io guardate che lo scambio può essere uno scambio insomma che salva l'Italia, insomma. Allora qua Paola, qui dobbiamo dire o ti sacrifichi tu oppure abbiamo un potenziale forconaro in giro per l'Italia che prende i forconi e se ne va, quindi mettiti una mano sul cuore e vediamo che cosa e dimmi fare. Tu se mi dai l'autorizzazione poi io mando il cellulare a questo signore, lascio giù il forcone e me prendo la Saluzzi, non è male come immagine. È un'ipotesi di buono scambio. Mi dispiace invece sentire, diciamo, travisate le parole di travisate. Luca Dini qua mi ricordo la scorsa settimana, però c'è una che ti ha fatto i complimenti, ha detto bravo direttore, uno che paragona, no, che è la vicenda dei barconi eccetera, poi ti ha risposto invece quello che dice sono io. Però mi ha risposto su altro. Io ovviamente rispetto moltissimo il fatto che lui paghi le tasse, come peraltro le ho sempre pagate io, e ho passato gran parte della mia vita con il portafoglio molto poco pieno, però mai ho vissuto qualcosa che vivono quelle persone e mi permetto di dire neanche lui, ecco. Insisto su questo punto. Insisti su questo, vabbè. Comunque la gente è qualcosa. Assaluta anche tu. Allora, eroe del giorno, eletto dal Corriere della Sera, un pensionato che in provincia di Milano, Luigi Musazzi, 78 anni, ha trovato un portafogli con 7.000 euro dentro. Non ci ha dormito due notti, ha detto sono 7 mesi della mia pensione, 14 mesi della pensione di mia moglie, non ci ho dormito due notti e dopo due notti ho detto no, sai che faccio? Io vado dai carabinieri. È andato dai carabinieri, l'ha restituito, ha detto scusate, io non ci ho dormito due notti, sono lì, 7.000 euro nel cassetto che mi guardavano giorno e notte, ma ha detto non sono miei. È andato lì, li ha ridati ed è stata trovata la persona, una ex tennista svizzera tra l'altro, che grazie l'ha ricompensato con 700 euro, gli ha dato cioè il 10%. Eccolo qui, ha fatto questo gesto Paola, no, diventa una notizia, poi dovrebbe essere la normalità, ma sappiamo che di questi tempi... La normalità però sembra un bel film, erano sempre belli, firmato da Vittorio De Sica, no? È un po' Miracolo a Milano, è quella coscienza che bussa alla porta di notte o di giorno e quindi tanto di cappello. Allora veniamo a questa cosa, Luca Dini, cioè no, dobbiamo spiegarlo perché c'è questo l'edizione speciale di 10 anni di Vanity Fair con tutte le copertine. Prima l'ho fatta vedere a Peter Bescapè durante la pausa, ho detto ma chissà in quel volume quanta adesso non mi ricordo il te... no quanta bellezza femminile troveremo, così ha esclamato così, quanta bellezza femminile, caro Luca Dini, in questo, no? Sì, abbastanza anche maschile. No, il numero speciale da collezione, tra l'altro, perché effettivamente... È un regalo, è una specie di best of. Ci siamo divertiti a mettere insieme tante delle cose che abbiamo fatto in 10 anni e raccontando anche qualche inedito, qualche episodio divertente. No, tra l'altro, visto che parli bellezza femminile e maschile, vedi subito sfoglio Paola Saluzzi, guarda che ti capita Roberto Bolle nella famosa copertina, quella photoshoppata, no? Te la ricordi quella... La photoshoppata, ma non dire così. No, io voglio la copertina col Dalai Lama invece. Perché vedere la faccia di quell'uomo ti rimette in serenità, sesso. Serenità. E anche l'intervista. Cioè. Però c'è anche l'intervista, io lo devo dire, grazie Luca, la devo far vedere ai miei figli, nel numero invece quello normale, diciamo, allegato o allegato sì. L'altro. C'è l'intervista, cioè Peppa Pig, grazie, devo farlo vedere ai miei figli, non si può chiudere la giornata senza Peppa Pig. Cosa avete fatto con Peppa Pig? Siamo andati a cercare

E questo trovate sui giornali. Trovate anche Milan Leone. Questa oggi è arrivata la Gazzetta dello Sport. A volte arriva, spesso no. E questa volta è arrivata. Milan Leone, gran serata a San Siro. Finisce 1-1 tra Milan e Barcellona. Ha vinto anche il Napoli. Ma siamo al momento la carta costa. E oggi, per l'articolo più inutile scovato sui giornali, siamo sul Fatto Quotidiano con Vincenzo Iurillo. Il titolo è ancora: la protagonista è Francesca Pascale. Non è lesbica, dice un ex fidanzato. Quando stava con me andava con un sessantenne. Insomma, non era lesbica secondo questo, però la tradiva con un sessantenne. E Vincenzo Iurillo fa tutta un'analisi dell'ex fidanzato che dice andava con un sessantenne. Beh, a pensarci però io non ci potevo credere, però adesso sta con uno di 77 anni effettivamente. E allora chi potrebbe essere? Beh, l'uomo che l'ha lanciata, Ubaldo Tritone, ex consigliere circoscrizionale di Forza Italia, nella cui impresa Francesca Pascale lavorava e portava i caffè. Questo raccontano al Fatto Quotidiano. Lo chiamano Tritone quelli del Fatto Quotidiano. È lei il sessantenne con cui stava. E questo, ma io non parlo al telefono. E poi chi le ha dato il suo numero? Ma soprattutto chi se ne fotte, verrebbe da dire. Il Fatto Quotidiano oggi vince il premio La Carta Costa. Non lo sanno che la carta costa, non lo capiscono. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri abbiamo parlato di lavoro, no? Vi ricordate, vi abbiamo chiesto di raccontare anche come è modificato il vostro stipendio, per scoprire purtroppo che per molti italiani si è modificato al ribasso negli ultimi anni. Oggi vogliamo parlare in qualche modo di una proposta che riguarda anche lo stipendio, il reddito degli italiani, una proposta che in Italia è portata avanti in Parlamento soprattutto dal Movimento 5 Stelle, cioè si tratta dell'idea di un reddito minimo garantito. Cioè, che cos'è? Una sorta di sussidio che viene stabilito con una cifra da quantificare, viene dato a una certa categoria di persone, anche qui da identificare, ma sentiremo per esempio che ne pensano e come si concretizzerebbe questa proposta del Movimento 5 Stelle. Che ne so, un sussidio che c'è in gran parte d'Europa, magari a chi è 18 anni, dai 18 anni su ed è senza lavoro per un tot di tempo. Ebbene, pensate che questa proposta, una proposta simile, o vediamo di capirne i dettagli, c'è anche in Svizzera. La sta portando avanti in modo concreto un comitato che ha raccolto 126.000 firme per fare un'iniziativa federale popolare che quindi il Parlamento dovrebbe esaminare. E ce ne parla Ursula Piffaretti, che saluto, buongiorno e benvenuta, grazie per essere con noi Piffaretti. Buongiorno. Lei è membro di questo comitato svizzero, promotore di un'iniziativa popolare federale per un reddito di base incondizionato. Intanto, le firme che avete raccolto esattamente quante sono? Sono molto di più di 126.000, perché dopo li facevamo sottoporre ai comuni, che dovevano dire se erano in doppio, se le persone non c'erano più, eccetera. Ma quelli validi sono poi stati 126.000. Queste firme vanno dove? Al Parlamento? Li abbiamo già portati l'ultimo 4 ottobre a Berna, nel Palazzo Federale, e li abbiamo consegnato al vice cancelliere del Consiglio federale. Le avete consegnate anche, ho visto delle foto con una scena, cos'è? Avete scaricato un camion di monetine? Sì, da... questo è la nostra azione simbolica, sì. Perché per ogni svizzero, che siamo in 8 milioni, tra adulti e bambini circa, abbiamo voluto versare almeno un 5 centesimo sulla piazza di Berna, per far vedere che sì, ci sono i soldi. Pensiamo ad ognuno, ognuno lo riceve senza distinzione e senza condizione, e anche simbolicamente questa moneta c'ha un davante e un dietro, c'è il numero e la testa. Dunque, una moneta per ogni persona. Insomma, una moneta per ogni persona. Avete riversato questa valanga di monete in gesto simbolico. Allora, voi che cosa chiedete? Questo, quello che chiedete voi, mi pare di capire, è il cosiddetto reddito di cittadinanza? No. No. È un reddito di base incondizionato. Sì. E questo deve permettere, consentire a tutta la popolazione, dunque non solo ai svizzeri, ma a tutti quelli che vivono giustamente, hanno il diritto di vivere, sì, in Svizzera, quindi anche stranieri, quindi anche stranieri, un'esistenza dignitosa, non solo minimissima, ma in modo da poter partecipare anche alla vita pubblica. Però mi scusi Piffaretti, questo vuol dire anche per gli stranieri che vivono in Svizzera? Questo vuol dire anche per gli stranieri che hanno un diritto di stare in Svizzera. Di anche stare oggi, in Svizzera. Lei sa, non tutti possono stare in Svizzera, ci sono certe condizioni. Certo, certo. Chi ha questa condizione partecipa alla vita sociale, mangia, beve, vive, lavora, e ottiene, anche se non ha un lavoro, diciamo, un impiego, lavorerà comunque, una mamma lavora per i suoi bambini, certo, eccetera. E questo è il reddito di base, no, ma sa perché le chiedo quello che si chiama in Italia reddito di cittadinanza? Perché c'è anche un po' di confusione, il reddito di cittadinanza in Italia vuol dire l'idea, quello che fanno solo per esempio mi pare in Alaska, cioè dare a tutti nel momento, sì, in cui nascono, anche da bambini, dare il diritto ad avere una certa quota che viene stabilita. Sì. Questo può essere paragonato. È paragonato a questo, cioè voi non volete dare quello che è invece un'altra cosa, cioè il reddito minimo garantito, che ne no, so, da chi ha 18 anni e disoccupato una cifra. Voi volete dare a ogni cittadino che vive in Svizzera in maniera rispettando le regole, diciamo così, sì, anche al momento in cui nasce, anche un anno, sì, dargli, garantirgli una cifra che poi utilizzerà quando sarà più... Diciamo, quello che abbiamo oggi in Svizzera per gli anziani, la AVS, o per gli invalidi, una rendita così che ognuno però lo riceve senza distinzione e senza condizione dalla nascita, i bambini una parte, gli adulti ognuno uguale tutti i mesi. Accidenti, e voi avete anche proposto una cifra, poi la cifra ovviamente nel caso dovesse essere esaminata questa proposta di iniziativa popolare non verrebbe stabilita da voi chiaramente, ma voi avete fatto anche una cifra che potrebbe essere attribuita a ogni individuo? Noi abbiamo fatto una cifra dopo aver valutato tutte le possibilità, perché in città lei vive, diciamo, ha bisogno di più soldi, in paese chiaro, chiaro, meno. Però diciamo in media, pensiamo 2.500 franchi, è una piccola cifra, ma si può vivere, si può anche, non impedisce di andare a lavorare. Guardi, e guadagnare una piccola cifra forse per il canone svizzero, 2.500 franchi sono circa 2.000 euro, no? Se il cambio, sì, mi aiuta. Sì. 2.000, sì, cioè, ma 2.000 euro ogni quanto? Al mese? Al mese, ogni persona adulta. Ogni persona adulta. Sì, invece... è ricca, povera, malata, sana, vecchia, giovane, invalida o no? Ma questo anche, mi scusi, allora per i bambini, cioè che appena nascono e che poi, sì, sconterà... Per i bambini noi proponiamo un terzo, cioè 625 franchi al mese. 625 franchi al mese. Per i giovani. Però questo, una volta davanti al popolo, il popolo dirà sì o no, e se dice di sì... va studiato bene come saranno queste cifre. Eh sì, perché come dire, se in Svizzera il popolo dice una cosa, viene fatta. Senta, Ursula Piffaretti, mi lasci salutare Michele Boldrin, il professor Michele Boldrin. Buongiorno Boldrin, economista. Buongiorno. Fare per fermare il declino. Insomma, Ursula, grazie, Piffaretti, buongiorno, che è promotrice del comitato, promotore di Iniziativa Popolare Federale in Svizzera, ci sta spiegando che hanno raccolto più di circa 126.000, ma anche di più, firme depositate al Parlamento federale svizzero per fare questa proposta, cioè un reddito di base incondizionato. L'ha sentita, no? 600 franchi. La cifra mensile mi sembra altissima. Insomma, per i canoni svizzeri. No, ma neanche per i canoni svizzeri. 600 franchi per i bambini, 600 euro, cioè 625 franchi per i bambini, ma proprio per i bambini, cioè il reddito di quale che sarebbe il reddito di cittadinanza, cioè per tutti, e per gli adulti 2.500 franchi. Una cosa del genere è improponibile, secondo lei, per i conti pubblici di un paese? Temo, se no, voglio capirla bene, siccome non conosco i dettagli della proposta, se mi permette invece di dare una risposta, faccio io una domanda alla signora. Sì. Cioè questo è un reddito monetario che andrebbe dato a tutti incondizionatamente, in cima ai servizi pubblici che lo Stato o i cantoni svizzeri già offrono, ossia scuole in alcuni casi, servizi sanitari eccetera, o è invece comprensivo di questi? Pifaretti ha sentito. Credo di aver capito, anche se non capisco ogni parola per via della lontananza, però sì. Bisogna vedere che sono i pensieri nuovi che vogliamo lanciare. Questi soldi non vengono in più di quanto uno ha già. Bisogna pensarli che vengono messi dentro sotto come base. Se uno ha un guadagno di 5.000 franchi e li prende dal suo datore di lavoro, 2.500 di questi 5.000 sono costituiti dal reddito di base. Vuol dire che il datore di lavoro può dire: tu ricevi già 2.500, non ti do più 5.000, ti do solo 2.500. Se poi un lavoro che uno non fa volentieri dirà no, ma io lo faccio solo per 3.500, questo è la base di poi nuovi contratti. Il resto rende meno costoso il, diciamo, quello che produce il proprietario della ditta. Sì, sì, cioè questo rende costa meno all'imprenditore, costa meno, no? Costa meno all'imprenditore. Però e il sistema si abbassano, diciamo, solo in breve. Certo. E si può aumentare una certa cifra di imposta, i prezzi per il consumatore non aumentano e questa imposta va a fornire questi soldi che però mi scusi questo. Pifaretti chiedeva al professor Boldrin se anche dal punto di vista dell'assistenza sociale, del welfare, lo Stato oltre a dare questi soldi si deve fare carico di scuole, ospedali, no, cioè. Questo non tocca in nessuna misura quegli impegni che lo Stato ha già oggi, scuole. Ospedali, tutto questo. No. Professor Boldrin, non è un bene che dà lo Stato alla popolazione. Prima di tutto siamo tutti noi che ce lo diamo in Svizzera, o ce lo diamo uno all'altro o no, e lo Stato eseguisce. Però sono soldi che vengono sotto, dentro. Se io ho un reddito di vecchiaia o così, una parte, quei 2.500 franchi, ricevo comunque. È chiaro. Professor Boldrin, È stata chiara nella risposta e ha capito che cosa, professore? Sì, ho capito. Beh, mi sembra, al di là della cifra svizzera notevole, mi sembra una proposta da paesi di Bengodi un po' pazzarella. Adesso io auguro alla signora tutta la fortuna possibile nell'avventura politica. Ho la terribile impressione che se la cosa venisse approvata e poi praticata nella forma che lei sostiene, molta gente in Svizzera smetterebbe tranquillamente di lavorare, per la semplice ragione che avrebbe un reddito personale, sto pensando a una famiglia di due persone, anche senza figli, con lavori non particolarmente gradevoli, un momento in cui hai 5.000 franchi in tasca, garantiti forse a, che so, fare il turno di notte per pulire le scale, cose di questo tipo, ci rinunci, ecco, dici vabbè, faccio altre cose, coltivo l'orto. In un paese come l'Italia ovviamente questo è fuori discussione, ma perché la possibilità che le finanze pubbliche italiane riescano a sobbarcarsi, ma anche se fossero 1.000 euro, non 2.000, un meccanismo del genere, cioè che tutti quanti nel paese devono guadagnare, se non lo guadagnano, me lo passa lo Stato, un reddito minimo, in questo caso di 1.000 euro. Reddito minimo garantito, che sa che è una proposta del movimento. Ma guardi, è una cosa che esce in svariate versioni un po' in tutte le parti del mondo, perché a tutti sembra giusto che ogni cittadino abbia un minimo di reddito, un minimo di dignità, che è assolutamente ragguardevole. Il problema vero di queste cose è che noi vogliamo che tutti abbiano un reddito minimo, ma vogliamo che anche tutti si sforzino e facciano il loro meglio per ottenerlo, non vogliamo darlo gratis, senza che la gente faccia alcun sforzo, perché altrimenti moltissime persone deciderebbero di non farlo quello sforzo, avremmo un popolo di persone ignoranti, che non andrebbero più a scuola bene, non importerebbe niente perché non c'è nessuna motivazione, e di nulla facenti, infatti fallisce regolarmente. Di fatto in un paese l'unica cosa che credo ragionevole da mettere, e guarda caso in Italia non c'è, sono sussidi di disoccupazione, per chiunque sia disoccupato, però legati, e dove funzionano nel mondo sono legati appunto a questo, al fatto che la gente poi invece il lavoro lo cerchi e non lo rifiuti. Quindi no, io direi che un'idea del genere, specialmente nel nostro contesto, ma in generale io faccio una previsione anche in Svizzera, non funzionerà. Non funzionerà. Beh, ma sono stanchi però. Esatto, questo è il tema del collasso. Il problema è che in Svizzera stanno raccogliendo le firme e sono, diciamo, un po' più seri da questo punto di vista. E magari ripartiamo da qui dopo la pubblicità. E cioè, se raccolgono le firme, il Parlamento federale ha il dovere di, se si raccolgono un certo numero di firme, come se fosse una legge di iniziativa popolare in Italia, ma poi le mettono nel cassetto in Parlamento, invece lì nel Parlamento le devono esaminare, e se le esaminano possono anche ovviamente bocciarle, oppure se le approvano questa cosa si fa. Allora, in Italia le dice salterebbero i conti pubblici. Tra un attimo, dopo la pubblicità, voglio ripartire da qui, perché a proposito di conti pubblici c'è un'altra bella sorpresa che abbiamo scoperto oggi in prima pagina del Sole 24 Ore, cioè con la legge di stabilità la spesa pubblica nel 2014 aumenterà di 2,7 miliardi, forse si coglie già un po' di mio nervosismo nel dirlo, aumenterà. In ogni caso parliamo di questo, ma continuiamo a parlare anche di questo reddito di minimo garantito. Che ne pensate, cari ascoltatori? 24 mattino. Allora, le 8:39 minuti, con noi Ursula Piffaretti, che fa parte del comitato svizzero promotore dell'iniziativa popolare federale per un reddito di base incondizionato, e il professor Michele Boldrin, che insomma ha già detto, professore, anche in Italia questo dibattito c'è soprattutto per il Movimento 5 Stelle, però ha già detto, mi pare di capire, sarebbe non sostenibile per i conti pubblici. A proposito di questo, ha visto questa notizia che la legge di stabilità porta a un aumento della spesa pubblica di 2,6 miliardi, scrive oggi il Sole 24 Ore, per l'anno prossimo, nonostante aumentino le entrate per quasi un miliardo, poi diminuirà nel 2015-2016, si spera, secondo le previsioni della spesa pubblica. Posso chiederle? Io no, non ho visto purtroppo, a Cosenza, ho finito tardi un incontro pubblico ieri sera, mi sono svegliato da poco, non ho letto i giornali, ho l'impressione che forse quello che aumenta sia il deficit, non la spesa. La spesa pubblica per 2,6 miliardi. No, la spesa aumenta molto di più. È sicuro che dicono la spesa? Nel 2014 sì, certo, la spesa pubblica. Poi nel 2015 e 2016 le spese cominceranno a calare di 4,7 e 6,7 miliardi. Diciamo che niente di sorprendente, vista la natura di questa legge finanziaria o di stabilità, come si chiama adesso. Sì. Quindi non mi sorprende. Ma come no? Cioè, oggi inizia anche Carlo Cottarelli, il nuovo commissario alla spending review, il proprio lavoro. Insomma, il proprio lavoro, però guardi, i provvedimenti di taglio di spesa in quello che io ho letto non ci sono, e quindi ovviamente sia per i meccanismi automatici sia perché appunto non si taglia niente. Non c'è niente da sorprendersi che la spesa aumenti. Ora, questo non vuol dire che sono contento, è chiaro. Sta analizzando la situazione. Uno che dice, purtroppo, con un governo che ha deciso che la conservazione e l'esistente sono la soluzione ai problemi drammatici che abbiamo, è ovvio che succeda così. Ma volevo tornare un po' alla questione della signora per buttare lì un'altra idea. Dunque, guarda, io sono abbastanza convinto che questo non sia attuabile neanche in Svizzera, per la ragione che ho detto, cioè che quando offri gratuitamente e automaticamente un reddito molto alto a tutti, a moltissime persone, o hanno veramente tanta voglia di lavorare, sacrificarsi, darsi da fare, oppure dicono c'ho una vita ben tranquilla senza dovermi sforzare, mi dedico più a qualche hobby, ma il lavoro lo lascio stare, e quindi a quel punto il paese, anche se la Svizzera smette di essere ricco come era prima, è di chi è diventare povero. Questo poi lo vediamo nel nostro paese, perché nel nostro paese certe forme di reddito garantito simili a quella ce l'abbiamo già, noi abbiamo, si sa, da anni, fenomeni di pensionamento anticipato, di pensionamento di invalidità. Ci manca in molte circostanze, non in tutte, ma in molte circostanze sono esattamente la stessa cosa, vengono concessi dei redditi, per carità, magari non sono 2.000 euro al mese, saranno 600-700 a persone che poi in realtà l'invalidità non ce l'hanno, che potrebbero tranquillamente lavorare data la loro età, e questi smettono logicamente di lavorare, di sforzarsi, e vivono un po' a sbaffo. Quindi, cioè, questo vale quando prendi 700-800 euro, vale a maggior ragione. Ma vediamo che ne pensa Ursula Piffaretti, lei che ne pensa? Non è un incentivo a dire alle persone: ma perché mi tocca lavorare se posso coltivare l'orto? E il paese si impoverisce a quel punto, un paese ricco. Guardi, abbiamo sentito il professor Boldin dire che lui crede che poi piuttosto nessuno lavora, che preferisce che tutti si sforzino. E d'altra parte abbiamo sentito nella radio prima che si fa di tutto per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo di lavoro. Va bene, diritto di vivere e diritto al lavoro, viviamo tutti, ma il lavoro non c'è per tutti, cioè il lavoro retribuito, perché io dico al professore: lavoro retribuito è pensato con lavoro, ma c'è tantissimo lavoro, appunto, se uno coltiva l'orto, perché no? Se educa i propri figli, non è lavoro. Ma certo è lavoro, però si impoveri e percepisce tanto, ma è tanto lavoro. Però anche, mi scusi Piffaretti, il ragionamento che faceva il professor Bordina è questo: se un paese è ricco abbastanza da potersi permettere un reddito di base incondizionato, se poi le persone ne approfittano e non producono più ricchezza e si ritirano tutti a coltivare l'orto, certo che è lavoro. Se questo e però questo vero, paese si impoverisce e poi negli anni non riuscirà più a garantire quel reddito. Ma io dico invece non capiterà così, perché tutti noi uomini vogliamo lavorare. Ci sarà spazio per invenzioni, per idee nuove, per lavori nuovi, per professioni nuove, per aiuto al prossimo senza essere retribuito, e il benessere di tutti aumenta. E siccome tanti di questi soldi, la maggior parte, non è un dono che viene dato dallo Stato così dall'aria, ma è già oggi dentro nel reddito che percepiamo, perché io non percepisco di più di quanto percepisco oggi, solo una parte è mia ed è garantita. Se no, però se uno fosse un disoccupato senza lavoro riceverebbe questo sussidio. Le riceve già oggi. Aumentano i costi dello Stato perché questi casi che sono disperati, non trovano lavoro, devono essere mantenuti, aumentano comunque. Ma magari è una visione, in realtà è una cosa visionaria, professor Boldrin. Ripartiamo da qui dopo il traffico, ci sono anche gli ascoltatori. Voglio salutare intanto anche Luca Fagiano che ci ascolta. Buongiorno Fagiano, lei è esponente dei movimenti per il diritto all'abitare, uno di quelli che ha fatto questa accampada o che continua a Porta Pia, forse limitata, forse... No, non continua l'accampata, ma abbiamo decretato una nuova giornata di assedio a Palazzo Chigi per il 31 ottobre. Oh mannaggia, assedio, ne arrivo da lei tra un attimo dopo il traffico. Eccoci. Allora, prima di andare a Luca Fagiano, se sono gentilmente molto concisi gli ascoltatori, ci stiamo tutti. Mario da Prato, buongiorno Mario, che pensa di questa proposta? Penso che sia come una che vive sulle nuvole, però vorrei che la signora Ursula Piffaretti potesse averne una visione positiva del mio intervento, non è una critica. Sì. Voglio fargli osservare, allora sono Mario Tognocchi da Prato, e mi occupo di scaricare tutto tutti, della questione fiscale, che tutti possano mettere le spese in dichiarazione dei redditi. Se la signora Piffaretti non tiene conto della questione fiscale, sembra che sia monopoli, io do i soldi in mano a tutti che tanto tutti giocano, ma quei soldi vengono presi alle persone, allora occorre che tutti coloro che hanno delle risorse abbiano una ragione per scrivere quelle spese in dichiarazione dei redditi, se no con l'evasione fiscale noi andiamo a prendere i soldi da certe persone e andiamo a darli a quelli che magari oggi sono già a nero, con delle risorse a nero. Lei però Mario la pone, fiscale, ma certo lei lo pone su una questione, e l'evasione fiscale la pone da un lato italiano, che magari in Svizzera ha anche una prospettiva diversa, però il tema lo capisco, cioè dice il senso del suo intervento e la ringrazio, così vado appunto veloce come promesso. Enrico da Reggio Emilia, buongiorno Enrico. Sì, buongiorno. Lei che pensa? Io penso questo, allora, posto che il reddito di cittadinanza di per sé è un qualcosa che approverei, però ci dobbiamo confrontare con un fatto, e cioè che nel nostro paese ci sono molti contesti in cui non si ricorre alla disoccupazione, alla richiesta di sussidio di disoccupazione come un fatto straordinario, ma tutti gli anni lo si fa, come un'integrazione a un reddito basso alla fine dei lavori agricoli. Ecco, allora se lo rendessimo più facile da ottenere, esploderebbe una spesa facile. Improduttiva. È una spesa improduttiva. Tra l'altro si chiama reddito di cittadinanza, anche lei lo chiama. In realtà reddito di cittadinanza è un'altra cosa, cioè è il dare al bambino che nasce, a tutti, nel momento in cui nascono, dei soldi. In realtà è il reddito minimo garantito, quello di cui si discute in Italia. Comunque, Luca Fagiano e poi Michele Boldrini a tirare le fila. Luca Fagiano, allora, voi siete del comitato, protestate soprattutto il diritto all'abitare, il diritto, qui parliamo soprattutto del diritto ad avere un reddito minimo garantito. È tra le proposte o le proteste che voi portate avanti, oppure questo non c'è nella campada che avete fatto, Fagiano? Assolutamente sì, ma il reddito è anche reddito indiretto, non è soltanto erogazione monetaria, e quindi avere una casa che si può pagare a prezzi popolari o le tariffe sociali per le utenze. Anche quello è reddito indiretto, non pagare i ticket sanitari, no, è reddito, non dover pagare tasse universitarie. Ma chi paga, quindi... chi paga tutto questo, mi scusi? Cioè è un bellissimo mondo nel quale, cioè, non pagare le tasse universitarie, perché? Il punto è non credere alla favola che i soldi non ci sono. Le faccio un esempio: nell'ultimo decreto del fare, quei 4 spiccioli che c'erano sulla casa sono stati di nuovo regalati alle banche, che forse un giorno erogheranno qualche mutuo. Se quei soldi fossero stati spesi direttamente per affrontare il problema delle famiglie in emergenza abitativa, avremmo risultati ben diversi. Questo è un esempio, lo so. Professor Boldrin, qui abbiamo anche allargato a questa campada, tiri un po' le fila su quello che ha sentito, sulla proposta, se dice l'ascoltatore vive un po' sulle nuvole Ursula Piffaretti, e poi magari le proteste che ha visto anche a Roma, se le sembrano un po' concrete, un po' esagerate. Ma guardi, io condivido, gli ascoltatori sono probabilmente due persone che lavorano e hanno ben presente che se... bisogna che tutti mangiamo tanto, ci vestiamo molto bene, viviamo in case bellissime e guidiamo delle macchine favolose. Qualcuno poi queste cose le deve produrre, e perché le produca bisogna dargli una ragione che le produca. Se tutti quanti abbiamo tutto gratis, non si riesce più a capire chi deve produrre. E quindi questo mi sembra il problema di fondo, ed è lo stesso problema che la signora Piffaretti si incontrerà. Lei è molto visionaria, c'è questa idea che se abbiamo il tempo libero, perché comunque una specie di stato padre ci regala a tutti un reddito garantito, poi ci dedichiamo a fare invenzioni meravigliose, mettiamo la penicillina e cose. Facciamo volontariato. La realtà è lì, la vediamo tutti e dimostra che così non è. Quindi io capisco le visioni, poi quando si vuole fare politica e cercare di far funzionare i paesi, meglio evitarle certe visioni, perché sono pericolosissime. E questo vale per le cose che dice il signore da Roma. Il problema non è se ci sono i soldi nella misura in cui sono i pezzi di carta, ne possiamo fare quanti vogliamo, possiamo stamparli. Infatti in Italia purtroppo gira questo mito eterno, guarda, è una storia antica degli umani. Gli umani hanno sempre cercato le maniere magiche per fare l'oro, si ricorda? Sì, come no. Esattamente. In età moderna, siccome non è più l'oro che usiamo, stampiamo per raccontare soldi, le cose, ma stampiamo soldi. E c'è questa idea mitica, un po' folle ovviamente, anzi tanto, che se stampiamo soldi e li diamo a tutti va tutto bene. Nessuno si pone mai il problema che il tutto bene vuol dire che qualcuno deve stare a farle le case. Siccome fare le case è un brutto lavoro, stanca, eccetera, eccetera, se già c'hai i soldi smetti di farlo e le case non ci sono più, e allora mangiamo soldi. È il mito italiano ed è un po' una cosa che a me fa un po' terrore da quando mi sono messo in questa avventura di cercare di ragionare e fare anche un po' di politica in Italia. Mi scontro frequentemente con questa visione che in una parte d'Italia è sedimentata, e cioè che la soluzione è una soluzione magica, non richiede fatica, non richiede sforzo, non richiede creare incentivi perché la gente lavori, richiede però, semplicemente stampare. Però le cose concrete che Fagiano dice, cioè non pagare i ticket sanitari, non pagare le tasse universitarie, non dare i soldi alle banche, ma darle i professori universitari bisogna pagarli, capisci? I medici bisogna pagarli, e se vogliamo che i professori universitari facciano un buon lavoro invece di quello, mi dispiace, con le ovvie eccezioni, mediamente non tanto buono che fanno ora, che le università funzionino, siano pulite, ci siano i laboratori, eccetera. A qualcuno bisogna dargli l'incentivo per farlo, per cui se nessuno paga per l'università, e chi la paga? Chi li paga? I professori? Vale per i medici, gli ospedali, se vogliamo comprare le macchine per, per fare l'operazione, se vogliamo avere i laboratori, eccetera, eccetera, bisogna pagare. È la stessa domanda che è venuta a me, Fagiano, che non paga, se lei non paga le tasse universitarie, chi paga? Chi pulisce i cessi all'università? Siamo in maniera più pratica. Il problema è che le risorse ci sono, se mi fa replicare un attimo. Sì, cioè le risorse, dove le troverebbe? Basterebbe per esempio toglierle a opere che nessuno vuole, come il TAV, e metterle lì dove la gente ha bisogno e ha fame. Il punto non è lavorare o non lavorare, il problema è perché, per cosa si lavora e per chi si lavora. Certo, lavorare per 500 euro al mese, essere strasfruttati, non è una grande prospettiva, quindi forse quello che si voleva dire prima attorno al dibattito sul reddito minimo è che noi vogliamo mettere le nostre energie, il nostro lavoro che facciamo, che abbiamo voglia di fare, al servizio di un altro modello di sviluppo, non di essere spremuti per far arricchire i soliti noti. Io nel concludere, e vi ringrazio, Ursula Piffaretti, ha visto un po' della visionaria le hanno dato, ma non in senso negativo, nel senso di avere una visione alternativa, le facciamo in bocca al lupo, ma per questa iniziativa, e poi ci tengo aggiornate. Si tratta da noi di avere delle nuove idee, perché le vecchie idee hanno portato fin qui. Adesso ci vogliono delle nuove idee. Le vecchie hanno anche abolito la schiavitù, che una volta gridavano: allora non c'è più nessuno che lavora. Noi diciamo: ci vogliono idee nuove, non i soldi sono la cosa importante, le idee nuove. Portarci a nuova dignità, responsabilità, perché non è una soluzione magica, ma ci vuole un altro punto di vista. Va bene, allora noi in bocca al lupo e ci terremo aggiornati, e ci tenga aggiornati su questa vicenda. La ringrazio Ursula Piffaretti, così come ringrazio il professor Michele Boldrini e Luca Fagiano, esponente dei movimenti per il diritto all'abitare, l'assemblea degli antagonisti a Porta Pia. Ci fermiamo, è tutto riascoltabile sul sito radio24.it. Io sono su Twitter Alino Milan, grazie a Miriam Lucchetti, Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi e Peter Bescapè. A domani, 7:24 mattino.